Certamente sarà capitato anche a voi l'esperienza di abitare in un certo posto della città o della campagna, conoscere benissimo la vostra zona e un giorno, magari dopo un temporale o per un raggio di sole, o per scoprirla come se fosse nuova. È sempre quella la zona, è sempre quello. Eppure voi la guardate con uno stupore nuovo che vi rallegra il cuore. Io credo che sia possibile fare la stessa esperienza, e io più di una volta la faccio, anche con la parola di Dio. La conosci a memoria, eppure la leggi un giorno e ogni parola ti parla. Mi è capitato questo proprio oggi, mentre leggevo il Vangelo per prepararmi a celebrare bene questa Santa Messa. Tutte le parole mi parlavano e vorrei condividere con voi, casomai potesse servire anche a voi. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva. Ecco, questa parola, chiamò a sé quelli che lui ha scelto. L'ho sempre saputo, si chiama vocazione questa. Eppure oggi aveva... È come se io fossi stato in piazza al Duomo e sentissi dall'altoparlante Ambrogio Villa, Ambrogio Villa. Ma quello chiama a me. Mi giro avvicino e dico, ma ha detto Ambrogio Villa? Sì. Cerca proprio me. E allora vado da chi mi ha chiamato. Amici, siamo stati chiamati così alla vita. Un giorno tua mamma è andata da tuo papà e ha detto, sono incinta. Ed eri tu. Ed eri tu. Che bello, amici. Ma la stessa cosa vale per il battesimo. Forse questa non l'abbiamo ancora capita bene. Non è una cosa normale battezzare un figlio. Tant'è vero che nel mondo siamo una minoranza i battezzati. E il Signore ha scelto te. E forse non abbiamo ancora ben capito cosa voglia dire il battesimo. Almeno io faccio fatica, sono un povero parroco di campagna, ma anche voi fate un po' fatica se dovessimo spiegare. Ma cosa cambia col battesimo? Si diventa figli di Dio, perché prima cos'eri? Non eri figlio di Dio. Ah sì, però qui più pienamente... Ah, sei stato chiamato con la creazione e con il battesimo. Io quando faccio gli esorcismi, questo glielo butto sempre in faccia a Satana. Vattene via. E più di una volta mi dice, è mio. È mia, fa impressione, eh? Sentirsi dire, e dico, ma che è tua? Questa qui è stata creata da Dio, è stata battezzata, tu cosa hai fatto per lei? Silenzio, silenzio. Siamo stati chiamati, con la nascita siamo stati chiamati col battesimo a diventare proprietà di Dio. Appartengo a Dio, made in Jesus Christ. Chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono. Questa chiamata continua, cari amici, non è fatta una volta per tutte e forse l'avremo sentita qualche volta speciale. Dobbiamo, se vogliamo, dire, eccomi, se non andiamo incontro a Gesù, amici, restiamo incollati nel nostro fango. Ne costituì 12 che chiamò apostoli. Anche questa parola, questo verbo mi parlava, ne costituì, fonda la Chiesa. E usa proprio questo verbo di costituire, io lo cambierei in fondare. Anche qui la Chiesa, amici, non è quella cosa di cui noi ci permettiamo di dire tutto il male possibile tante volte. La Chiesa è mia madre. Stai attento a perdere la Chiesa tua madre, perché saresti orfano. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare, ma prima perché stessero con lui. Com'è bella questa familiarità. Era tutta gente che aveva famiglia, perché di Pietro si parla che aveva la suocera e dunque era sposato. Era gente che aveva un lavoro, si parla degli apostoli che erano pescatori, lasciarono le reti e lo seguirono. Matteo era esattore delle tasse, perché stessero con lui. Che bello, amici, questo verbo. Io vi auguro di avere tempo di stare con il Signore. Stare, diciamo, restare. Abitarci, frequentarlo così tanto da crescere a somiglianza sua, perché stessero con lui. Allora solo dopo possono andare a predicare, se no cosa vanno a dire? A me sembra che, il tuo pensiero è interessante, ma a me interessa il pensiero di Dio. E questo è il compito di ogni sacerdote. Ma di per sé questo dovrebbe essere il compito anche di ogni genitore. Cosa trasmette al figlio, alla figlia? Fai bravo, ne? Comportati bene? Vabbè, d'accordo. Ma il Vangelo, amici, trasmettere il Vangelo. Date e vi sarà dato. Perdonate e riceverete il perdono. Pregate. Questo è predicare, è annunciare semplicemente il Vangelo. E poi c'è un particolare che tutti i commentatori ignorano: con il potere di scacciare i demoni. Io ho letto 5 commenti sul Vangelo di oggi, nessuno parlava di questa frase. E mi dicevo, per forza non ne parlano, non lo conoscono, allora è meglio che tacciano, piuttosto che dire stupidate. Ma non lo conoscono il demonio. Io volevo concludere questo pensiero dicendo: non pensate subito all'esorcista, perché ciascuno di noi può cacciare il demonio. Come? Noi dimentichiamo che il demonio agisce nel mondo in maniera straordinaria e lì ci vuole l'esorcista. Ma soprattutto agisce di gran lunga in maniera normale, ordinaria, i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Gesù è venuto per questo e ha vinto il demonio scalzando il suo regno di peccati dentro di noi. Allora anche noi siamo chiamati a scacciare i demoni. Siamo chiamati a convertirci, siamo chiamati a vincere i nostri peccati prima di vincere i peccati degli altri. E se saremo capaci di vincere i nostri peccati, avremo scacciato il demonio.